e l'immenso è. Questo amore mio, ed il mio cielo è l'anima, è il mondo che vorrei che immaginai. Quello che non ho mai avuto mai, è restare solo, a ridere di me e non sapere cos'è. Cos'è un confine immenso, immenso, immenso è lei che vuole me, immenso è lei. E sa nascondermi, che non ha numero mai, portarmi via, e sa delle mie lacrime, che può vedermi piangere. Resta è inutile, pezzi di colori che non ho per me darei. Amore, amore, amore, se non ho che lui, se non ho l'immenso, l'immenso, l'immenso, l'immenso è lei. Che vuole me, immenso è lei, che sa nascondere.